Diciamo che il viaggio di Draghi e von der Leyen si inserisce in una serie di tentativi dell'Italia e dell'Unione Europea di trovare alternative al gas russo. È molto difficile, l'Europa importa 150 miliardi di metri cubi di gas da Mosca, ma si tratta insomma di cominciare a costruire qualche alternativa. E lo Stato ebraico qualche anno fa ha iniziato una produzione di estrazione di gas naturale dopo aver trovato dei giacimenti sulla costa del Mar Mediterraneo ed è quindi diventato improvvisamente un piccolo attore anche sul piano delle esportazioni energetiche. Avrebbe, secondo le stime, la possibilità di esplorare ed estrarre 1.000 miliardi di metri cubi di gas, laddove il fabbisogno nazionale è di soli 11, quindi insomma c'è un margine abbastanza considerevole di esportazione. Il quesito aperto riguarda le modalità di trasporto poi di questo gas. Come potrebbe arrivare in Italia e in Europa? Esattamente, il problema è quello che i tecnici chiamano di evacuazione, ovvero sia i grandi progetti come quello del gasdotto ISMED che doveva passare da Israele a Cipro, da Cipro alla Grecia fino ad arrivare in Puglia, oppure di un gasdotto altrettanto ambizioso che transiti dalla Turchia, sono ambiziosi, richiederebbero anni e incontrano problemi politici sia sul piano interno degli stati, i 5 Stelle per esempio si opposero all'arrivo del gasdotto in Puglia, sia sul piano internazionale, la Turchia che non voleva essere bypassata e Israele che non si fida a costruire un'infrastruttura così importante con un paese come la Turchia con cui ha rapporti instabili. L'unica, diciamo, via percorribile nel breve termine è quella di trasportare tramite gasdotti già esistenti questo gas naturale israeliano in Egitto, dove esistono due stabilimenti per liquefare il gas, trasformarlo in gas liquido e a quel punto portarlo via nave verso l'Italia, verso l'Europa. Questa è l'unica ipotesi percorribile, ma si parla comunque di quantitativi limitati che non risolverebbero nell'immediato il problema della dipendenza dal gas russo. Una delle preoccupazioni riguarda le tempistiche, che non si è sicuri siano compatibili con quelli che sono i tempi rapidi della decarbonizzazione di cui si parla nelle varie conferenze internazionali. Ecco, ti chiedo di che tempistiche parliamo per la costruzione di nuovi gasdotti come EastMed? Ma si parla di sicuramente anni. E appunto come dicevamo prima, il problema è che prima di arrivare a costruire le infrastrutture è necessario un accordo politico di vari attori che negli ultimi periodi hanno dimostrato di fare fatica a mettersi d'accordo. Quindi nulla, insomma, che possa nel breve termine avere un impatto relativamente al conflitto in Ucraina. Un'ultima domanda, alle questioni energetiche si sommano quelle geopolitiche e delle tensioni riguardano sia il trasporto con la Turchia sia anche l'estrazione con il Libano, è corretto? Esattamente, sì, con la Turchia c'è stato proprio negli ultimi mesi, con una visita il 9 e 10 marzo ad Ankara del presidente israeliano Herzog, un disgelo nel quale gli analisti hanno letto proprio un interesse della Turchia, di Erdogan, che sta attraversando una crisi economica e una svalutazione importante, di proporsi come punto di passaggio appunto del gas israeliano. Ma come accennavo prima, Israele è ancora incerta se fidarsi di un leader politico che così spesso ha preso le parti dei palestinesi, ha rotto le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, espellendo nel 2018 l'ambasciatore Itanae, e dunque non viene considerato molto affidabile. Per quanto riguarda il Libano, sono in corso ormai da diversi anni delle trattative per la demarcazione del confine marittimo, che non è mai stato definito. I due paesi sono formalmente in guerra e il Libano non riconosce lo Stato ebraico, ma per procedere anche lui, diciamo, a esplorazioni e potenziali estrazioni di acque che sono limitrofe e quindi probabilmente anch'esse ricche di gas naturale, devono sedersi a un tavolo. E proprio in queste ore l'inviato americano Amos Hochstein è a Beirut per cercare di stabilire una linea che possa permettere a entrambi i paesi di esplorare le acque limitrofe alla frontiera.